Storielle. Storiacce. Più sicurezza e più carceri, 10 anni dopo il suo sequestro, quando un altro processo ancora si deve celebrare per stabilire da chi partì il colpo che uccise l'ispettore Samuele Donatoni, impegnato per la sua liberazione, Giuseppe Soffiantini formula queste richieste per evitare il ripetersi di casi come il suo. Se è successo per, come si dice, per fuoco amico, allora la disgrazia è ancora più grossa. La colpa è comunque sempre dei banditi, no? Di quella giornata, del momento della sparatoria e della blitz, del primo tentativo di liberarla, lei ne fu messo a parte in quell'occasione stessa? Le lettere me le facevano scrivere a me, quindi io sapevo che il giorno 17 c'era l'incontro. I due carcerieri, Farina e Cubeddu, erano lì con me, intanto che l'altra, gli altri componenti della banda erano a riscuotere il riscatto. No? Quando poi il mattino dopo è arrivato il carceriere, allora ho chiesto, allora hanno portato i soldi, altro che soldi, c'è stata una sparatoria e è morto un poliziotto. Adesso quando tornano gli altri sarà difficile salvarti la cotenna. Poi sappiamo che gli altri sono stati presi, poi però da quel momento lì gli altri 4 mesi di prigionia, se prima era un inferno, dopo è diventato indescrivibile. Tutte le occasioni minacciavano di uccidermi. Poi ho parlato molto con questi carcerieri, forse ci siamo scambiati la sindrome di Stoccolma. Che tipo di conversazione? Gli dicevo sempre, fin dai primi giorni, oltre che essere dei feroci banditi, siete dei pazzi, 8 mesi per costruire una situazione di questo genere. E loro cosa le rispondevano? Che paghino il riscatto e noi ti lasciamo andare. Ma loro pensavano addirittura che io potessi pagare questo riscatto, perché ero convinto che avessi delle disponibilità in Svizzera, no? Mi sono rivolto al signore e ho detto, signore, se questo è il mio destino, fa che io possa riabbracciare prima di morire i miei cari. Poi quando mi hanno davvero liberato, loro ho detto, no signore, guardi che non è più valido quello che avevo detto prima, quindi lunga vita fino adesso, insomma, è andata bene. In qualche modo si era instaurato anche una forma di dialogo, era così con tutti i componenti della banda? In modo particolare con quello che si faceva chiamare Marco, che è Farina. Insomma. Una volta mi ha detto, i tuoi figli sono degli infami che preferiscono godersi i tuoi soldi piuttosto che pagare e salvarti la vita. Allora io gli ho detto tutte le più brutte parolacce che io potessi conoscere, no? Dopo 3-4 giorni gli ho detto, vedi, tu presso poco potresti essere mio figlio, tu un padre ce l'hai o l'hai avuto? Come puoi dire a un uomo che potrebbe essere tuo padre quello che tu hai detto dei miei figli? L'ho guardato negli occhi, mi sono venute le lacrime agli occhi ed è scappato via. È tornato una notte e mi ha detto, sei un brutto vecchiaccio. Dopo la drammatica sparatoria con la morte dell'ispettore, ci credeva ancora nella possibilità di un'operazione per la sua liberazione? Ho lasciato, come si dice, ogni speranza. Perché dicevo, adesso quando tornano gli altri sicuramente mi ammazzano, perché già prima volevano uccidermi perché dicevano questo può aver visto tante cose. Dopo il blitz pensavo proprio che era finita. La conclusione della sua vicenda, se ha avuto un lieto fine per lei, così non è stato per l'ispettore. Non ci voleva proprio questa amarezza, perché sarebbe andato tutto bene. Nel momento in cui c'è stata la sua liberazione, lei sapeva del riscatto? Sì, perché ero io che scrivevo le lettere a casa e sapevo che era stato autorizzato il pagamento controllato del riscatto. Poi loro ne volevano ancora, allora lì è diventato ancora tragica e poi si sono decisi, grazie anche al fatto che chi ha portato i soldi, i due emissari, specialmente l'amico d'infanzia, no, è stato molto determinato nel dire questi sono i soldi che abbiamo potuto portare, noi non verremo mai più a portare soldi perché i soldi non ce ne sono più, ma anche se ci fossero non ci verrà mai più permesso di portare altri soldi. Ci hanno pensato 7 giorni ancora e poi mi hanno liberato. Lei, nel momento in cui avveniva questo incontro, aspettava sempre nella sua prigione? L'avevano spostata? No, ero in una tendina lì sui monti della Calvana, che è sopra Prato, e mi sono accorto che i carcerieri non c'erano, perché erano andati sui luoghi, no? Quando sono tornati ho detto, sì, hanno portato i soldi, ma ne hanno portato solo una parte. E dico, allora cosa facciamo? E loro cosa le risposero? Ho detto, vedremo, vedremo. Io avevo chiesto, ottenuto, che mi portassero anche due fette di pane, mi hanno portato la pasta asciutta, che sarà stata all'incirca le 2 del pomeriggio, e poi le 2 fette di pane che doveva servire per la sera e per il mattino successivo, no? Dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora, arrivano e mi dicono, ti liberiamo. E dico, se mi volevano liberare non mi portavano le 2 fette di pane, quindi vuol dire che sono braccati e adesso mi ammazzano. Mi hanno messo una benda e quindi, siccome mi avevano promesso già tante volte che mi avrebbero dato una piccolata in testa e gli animali del bosco avrebbero fatto pulizia del mio corpo, dico ecco. E invece mi hanno fatto sedere su una pietra, io aspettavo di morire, e invece ho sentito che mi ha messo una mano in tasca, mi ha detto ti ho messo una scheda telefonica, l'aspetta 10 minuti, poi scendi da questa stradina, trovi una strada asfaltata, sei libero. Sentivo veramente il cuore che mi veniva fuori dal petto. Non la minacciarono di, non so, di non dire nulla? Mi hanno detto, sta attento, non farti trovare da 2 persone sole, perché c'è chi ti vuole ammazzare e addossare la colpa a noi. Un avvertimento sincero, secondo lei? Secondo me sì, perché l'hanno ripetuto. E poi mi sono fatto le mie ipotesi che magari ci fosse qualcuno che non voleva che venissi liberato. Durante il processo a questo qualcuno è stato dato un nome? No, è stato archiviato come una minaccia per intimorirmi e lasciare a loro il tempo di scappare. Oggi la sua vita, Giuseppe Soffiantini, l'ha ripresa in mano, riuscendo a superare quell'incubo grazie anche ad una promessa che fece a se stesso mentre aveva le catene alle caviglie e grazie al dialogo che riuscì a costruire con i suoi carcerieri. E ancora quando ero sequestrato, dicevo, se avrò la fortuna di poter recuperare la libertà e la mia vita, devo cercare di non pensarci. Ma per non pensarci bisogna non covare sentimenti di vendetta. E lei ci è riuscito? A me in 10 anni non è mai capitato di sognarmi un momento di quegli 8 mesi. Lei, Soffiantini, dopo la liberazione ha mai avuto più notizie dei suoi carcerieri o delle loro famiglie? Il bassista di Manerbio, quello che è stato in carcere con Moro, questo ha raccontato un sacco di balle, anche esagerando molto sul mio patrimonio, quindi ha combinato, dice, indico io uno da sequestrare. Questo aveva preso 13 anni, gli altri 23, 25, ergastolo, eccetera, e lui di 13 anni. Però dopo l'hanno liberato 4 anni prima, quel giudice che gli ha dato gli arresti domiciliari con l'obbligo di soggiornare a Manerbio. Così magari mi può far compagnia, magari. Quando è stata la prima volta che lei lo ha visto? Ma io l'ho visto, ma non mi sono fermato, per la verità. Ho paura delle mie reazioni, no? Lui ha preso del sequestro 200.000 lire, mi risulta. Altro che Giuda, io abito in un paese di 13.000 abitanti, no? Fortunatamente mi avevano già informato che questo era pacificamente seduto tutto il giorno lì al bar a godersi il sole e vedere la gente che passeggia, insomma. E invece degli altri componenti della banda, dei suoi sequestratori, lei ha mai avuto notizia di qualcuno? Uno di questi durante i processi mi aveva chiesto alla famiglia scusa e portandomi alcune giustificazioni, seppur con molta umiltà, mentre invece quello che è in carcere duro, Giovanni Farina, a Natale l'anno scorso gli ho mandato dei libri in prigione e lui mi ha scritto e mi ha chiesto se volevo far pubblicare delle sue poesie che aveva scritto prima del mio sequestro. Ne ho selezionato 55, sono già in stampa per essere pubblicate. Allora Forse dovremmo pensare che in tutti, anche i più feroci banditi, sapessimo cogliere in tempo, forse potremmo avere la possibilità di salvarne un po'. Se le nostre istituzioni, il nostro governo dovesse investire nelle carceri e dare la possibilità a chi vuole di studiare e di lavorare, forse noi una buona parte di queste persone potremmo recuperarli. Anche se la vita poi scorre normale, chi è stato un sequestrato come Soffiantini lo resta per sempre, e per questo l'imprenditore bresciano ha voluto incontrare chi, dopo di lui, ha vissuto la sua stessa esperienza. Gian Battista Pinna, che è stato liberato 3-4 mesi fa, seguivo molto attentamente perché era, si è rivisto, piuttosto agitato, diciamo, sapere che un'altra persona era in quella triste situazione. Quando poi è tornato, lui mi ha telefonato molto affettuosamente, sono andato a trovarlo. Lui le ha raccontato la sua esperienza da sequestrato. Sì, successivamente poi lui è venuto a trovare me e allora dopo siamo stati insieme una giornata intera, mi ha raccontato della sua esperienza, ecco. Che ha avuto, immagino, anche degli aspetti simili. Sì, insomma, ogni sequestro è una cosa a sé, però ci sono quel tipo di violenza, di portare l'essere umano a livello animalesco. Difatti io, per difendermi, avevo fatto proprio questo pensiero. L'essere animale è qui legato alla catena, ma io sono un uomo pensante e quindi col pensiero posso andare dove voglio, vado a vedere il mio giardino, vado a vedere, non potevo andare a trovare i miei cari perché quello mi metteva troppa angoscia.